Siamo con Aldo Ciolfi di 102 Distribution per parlare del film Il Dubbio di Vahid Jalilvand in uscita in sala il 10 maggio. Aldo, ben trovato. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Beh, Lo descriviamo brevemente? sì, allora, innanzitutto Il Dubbio è stato un film presentato alla sezione Orizzonti a Venezia scorsa, nel 2017, dove ha vinto il premio come miglior regia e miglior attore protagonista. È un film, insomma, è un po', vado un po' a favore dei miei interessi, dicendo che è un film veramente, veramente bello, un po' sull'onda di una separazione di Asghar Farhadi, cioè qui sul cinema iraniano veramente, veramente interessante. E è la storia praticamente di un medico legale, un dottore, Cavè, lavora in un obitorio. Una sera investe accidentalmente con la sua auto una famiglia che viaggia, padre, madre e figlio, su una moto. Il bambino cade, batte la testa, comunque si rialza, il medico spaventato lo visita, il padre altrettanto spaventato, un po' più, chiaramente un po' più arrabbiato. Comunque, insomma, il dottore cerca di aggiustare la cosa offrendo dei soldi, padre del bambino rifiuta, insomma, si ricompone la cosa e se ne vanno tutti abbastanza scossi. Il dottore continua ovviamente la sua vita normale e 2 giorni dopo il cadavere dello stesso bambino viene nell'obitorio e il dottore Nariman lo riconosce. A questo punto gli scatta il dubbio: sono stato io ad averlo ammazzato o, come dice l'autopsia, il bambino è morto per un'intossicazione alimentare? Perché il padre aveva comprato dei polli a bassissimo costo, risultati poi avariati. Quindi a questo punto, diciamo così, scatta un po' una doppia storia, cioè come due categorie di mondi totalmente lontani, ricco, o meglio, il borghese, il l'agiato dottore e invece il povero padre del bambino, come affrontano questa tragedia? Ognuno con i propri sensi di colpa. Il padre perché pensa di aver ucciso il proprio figlio avendo comprato del cibo avariato. E il dottore pensa di essere stato lui ad aver investito e aver causato quindi la morte del bambino. Quindi insomma sono due mondi che entrano a confronto, come proprio nel cinema di Farhadi, come nella separazione. È praticamente un film che parla del coraggio delle proprie azioni, cioè delle conseguenze che il timore di assumersi le proprie responsabilità può avere sulle vite altrui. Sì. È un film molto, molto, molto bello che sicuro, sono convinto che non lascerà indifferenti le persone che lo vedranno. Sì. Il tutto in un ambito di una società profondamente divisa in classi, come dicevi giustamente tu. Questo è evidente fin dall'inizio e Esatto. condiziona tutto l'andamento del film. Assolutamente, hai colto bene diciamo così, la dualità, se vogliamo usare questo termine, del film. Cioè qui vengono rappresentate nell'Iran moderno, che poi l'Iran, voglio dire, proprio in questi giorni ancora più è sulla bocca di tutti, non fosse altro perché ieri Trump ha disconosciuto l'accordo sul nucleare, quindi abbiamo tutta una serie di attività. Ma il cinema iraniano io penso che possa effettivamente contribuire a far vedere che l'Iran non è proprio forse come ce lo immaginiamo noi, totalmente ancora, non dico ancestrale, ma in realtà è fatto da mondi che molto spesso sono anche un po' vicino a noi. Voglio dire, il dottore è sposato con una sua collega, altrettanto quindi una professionista, sono benestanti, hanno una bella casa e di contro c'è invece la povertà rappresentata da un padre che viaggia con una moto con 3 persone e che per risparmiare dei soldi ha comprato a sua insaputa comunque del cibo avariato. Quindi voglio dire, è la storia un po' dell'Iran moderno, certamente. Raccontato con gli occhi di una persona che comunque, voglio dire, ci vive, ci lavora. Sì. Sicuramente, voglio dire, è un film che fa vedere anche com'è l'Iran in questo momento. Aldo, dell'opera di Jalilvand, cosa sappiamo oltre a questo film? Beh, insomma, voglio dire, è un regista che comunque ha avuto già le sue esperienze, ma questo diciamo che è il primo film che, diciamo così, ha una distribuzione con un ampio, con un respiro un po' maggiore. Diciamo che penso che questo sia il primo film di Chalivan che sia stato distribuito in Italia. Gli attori sono famosi ovviamente in patria, un po' meno all'estero, ovviamente, ma diciamo che questo è anche un film, un'occasione per poter far vedere, oltre che chiaramente quando ha vinto Orizzonti a Venezia, che lì è stato il momento forse di massimo fulgore chiaramente del regista, avendo avuto una platea internazionale. Sono convinto che il film contribuirà a far conoscere ancora di più i film iraniani, che sono comunque bellissimo rappresentati, voglio dire. Farhadi e gli altri, io penso che Shalivand potrà avere anche lui un piccolo posto nel cuore degli appassionati del cinema in Italia. Aiutato in questo anche da un bel cast di bravi attori e attrici. Sì, su questo assolutamente, Sì. veramente, non fosse altro che appunto Orizzonti è stato vinto il premio anche non solo come miglior regista, ma come miglior attore protagonista. Veramente una piccola chicca, io mi sento di Sì, poterlo sì. consigliare. Aldo, in chiusura, in quante sale sarà? Guarda, sarà un'uscita stretta, un po' perché il periodo tra varie uscite, Sorrentino e altri bei film, le sale sono abbastanza occupate, nonostante il periodo si avvicini a quello un po' più libero. Però tuttavia il film uscirà in una trentina di sale. Però toccando chiaramente tutte le principali città italiane. Benissimo, allora ricordiamo il film Il Dubbio di Vahid Jalilvand in uscita in sala il 10 maggio. Un saluto e un ringraziamento ad Aldo Ciolfi di 102 Distribution. Aldo, un abbraccio e alla prossima. Grazie, grazie tante. Ciao.